il mouse, aspetta, riappoggio il computer davanti. Allora possiamo procedere. Allora il mouse funziona. Ok, allora guardiamo un attimino la rete. Dimmi se in basso, a destra, vicino all'orologio, è presente il simbolo della rete, lo conosci, sì? Passo adesso, sì, allora, apri impostazioni rete internet, questo qua. Sì. Ok, c'è scritto non connesso, mostra reti disponibili. Sì, faglielo fare. Come faccio a impostare la password qua? Aspetta, ti metto la password. Sì. Aspetta, si sta connettendo, vediamo cosa mi dice. Acquisizione indirizzo IP. Adesso sono connesso. Oh. Adesso lancia Google Chrome. Aspetta, devo uscire da tutta questa pagina che c'ho. Aspetta, se da sotto lo posso anche lanciare da sotto. Sì, è lo stesso, come vuoi. Sì, allora aperto la pagina Google Chrome, dimmi. Digita Team Viver, tutto attaccato. E ci siamo. Ok. Nella ricerca sicuramente ti appare TeamViewer, supporto e controllo remoto, giusto? E io ci clicco sopra. Sì. E ci sono. Fai download for free. Sì, sì, download gratuito, quello lì. Esatto. Cosa devo fare adesso? Il download gratuito di TeamViewer inizierà a breve. Sì, aspetta un pochino se te lo fa. Sta caricando 32-30 secondi. Solo questo computer, il monitor è troppo in alto, devo inclinarlo, beh, me ne sta uscendo il collo, ci credi? Perché l'ho messo al terzo ripiano ed è troppo in alto, devo stare col collo girato. Il modo migliore per o ti alzi la sedia o ti abbassi il monitor. Abbassami adesso, schiacciato il mouse anziché il microfono. Ho schiacciato il tasto del mouse per parlare anziché il tasto del microfono. Quello lo potrei fare in seguito. Ce l'ha fatta a scaricare. Mi appare setup exe, così forse è già aperto. No, aspetta, cosa ti appare? Allora, installazione, team row, aspetta che te lo dico. Diretta, benvenuti team view, come si chiama, come desideri continuare, installa con le impostazioni predefinite, installa configurato all'accesso non predesignato e avviare soltanto. Cosa devo fare? Avviare soltanto. Poi mi ha dato un mouse ridicolo, più grosso, per appena più grosso del dito pollice mio. E vabbè, l'importante è che funzioni. Accetto, accetto, così. Sì. Cosa fa adesso? Ti dovrebbe apparire una pagina che ti dà il tuo ID e la password. Aspetta, la password, una pagina c'è scritto, vuoi consentire a questa applicazione di apportare modifica al dispositivo? Sì o no, devo mettere? Sì. E ci siamo. Poi? Ti è apparsa la pagina di connessione dove ci sono password, ID partner. C'è scritto accetto l'EULA e il DPA. Metto accetto e poi continua e mi sono fatte consenti controllo remoto, controllare il computer remoto. Sì, controllo remoto. Allora qua c'è scritto console di controllo. Aspetta, mi stanno apparendo pagine una dietro l'altra, cosa è visto? Mamma mia. Vedi un po'. Deve apparire una pagina essenzialmente con le scritte evidenziate in azzurro o bianco. C'è scritto il tuo ID e poi sotto password. Oh, perfetto. Ecco, a me mi interessa avere il tuo ID, dove c'è scritto tuo ID. Qual è? I numeri li vuoi? Sì, sì. 546-861-333. No, ripetimelo. Ma la domanda, se questi dati li ascolta qualcuno lo può fare uguale a un altro? In teoria sì. Però siccome il computer è vuoto no, non lo può fare anche perché ogni riapertura cambia. Quindi era 546-861 546-861-333. Ci mancava un 3. Vediamo un po'. Dammi la password. Allora, in minuscolo Sassari, Ancona Milano, 44, minuscolo Bologna, Ancona X. Sto entrando, eh. Fai tu. Mi vedi? Cosa hai fatto? Tu c'è in più, unità, utenza gratuita per uso non consentito. Sì, ma mi vedi che io sono dentro? Muovi il mouse, non lo so. Sì, ti fai. In ogni caso, come spegne il computer, spariscono tutti questi dati, cioè rispegnendolo io. Sì, assolutamente sì. Come stai in inglese? Dai, mi arrangio un pochettino. Sicuramente con l'inglese è meglio del francese. Il francese è dell'assoluto, l'inglese già mi arrangio un po', dai. Ok, qua dove sto indicando vedi che questo è il programma principale. C'è una parte tutta free che funziona perfettamente e una parte... una parte diciamo che puoi usare solo per 5 minuti, dopodiché si disabilita, che è quella a uso professionale. Adesso te la avvio, guarda. Benissimo. Non c'è scheda audio, mi dice. Questo computer. Filato l'accesso a lettura dell'indirizzo 5. Andiamo bene. Troppo bene. Bello, ma la scheda audio computer. Adesso te la verifico, che è la parte più importante, ma non è possibile. Non c'è la scheda audio nel computer. Qua ce n'è una, però vediamo un po' cosa mi dice qua. Ma questo antivirus che c'è è utile o non conviene? Non c'è cosa peggiore in un computer di avere due antivirus. L'antivirus di Windows 10 è già installato nel sistema operativo e si chiama Windows Defender, perché è importante che rimanga tale. Se tu installi soprattutto questi tipi di antivirus gratuiti, ti danno rogna e basta. Quindi sarebbe stato un antivirus che tra un paio di giorni ti avrebbe richiesto il pagamento della versione diciamo licenziata, ecco. Perché a me me ne hanno messo uno, cacchio, non riesco a tirarlo via, vabbè, non ne capisco niente, quello Carpeschi, come si chiama? Se c'hai Windows 10 c'è già il suo e va bene, punto. Tutti gli altri creano problemi a tanti livelli, te lo dico perché anche noi che abbiamo anche quello a pagamento lo abbiamo dovuto installare disinstallare da molti computer, proprio perché con Windows 10, soprattutto le ultimissime versioni, dava problemi. Ma questo autovirus del Windows 10 si aggiorna continuamente o sempre quello che è installato? No, si aggiorna continuamente. Okay. Adesso ti sto facendo anche controllando l'aggiornamento per vedere a che punto è. Se non sbaglio mi ha detto che c'è un riavvio, questo è molto grosso, la 1809, quindi volevo vedere quanto è veloce questa rete, come mai sta tardando così. È lenta la mia. Ma magari l'orario è un po', poi sabato le reti sono intasate, vediamo un po' cosa ci dice. Oh, tieni presente che ci ho collegato il cellulare, sto guardando anche la partita in sottofondo. Adesso infatti vedo quanto ti dà. Ma la scheda audio è presente o no, Gianfranco? Lui dice che è presente solo quella audio, ma gli altri ingressi non sono attivi. Cioè, cosa vuol dire gli altri ingressi? Per fare che cosa? Addirittura. 6 a 5 appena. Pochino, Ti hai presente, questa è fibra mia, è una vergogna. Infatti adesso mi devo staccare tutto. Ho parlato l'altro giorno, ero alle poste, c'era un tipo che conosco, che lui lavorava lì, mi ha detto metti questo Open Fiber che è un altro pianeta rispetto a quello. Lui c'aveva a team, tutti i problemi che li ha, perché volevo andare a team, mi ha detto lascia perdere, mettiti questo qua Open Fiber di coso, delle poste, che costa un terzo di quello che pago io normalmente. Guarda, via radio senza fibra io ho la stessa velocità, considera che ci sarà attaccato un casino di gente a quest'ora, però sono quasi più veloce come pull down. Vabbè, tieni presente, c'ho adesso qua questa linea, più c'ho il cellulare che è in 4K, poi c'ho mia figlia che sta guardando cosa al computer, lo stesso su internet, c'è un sacco di roba collegata, c'è. Sì, vabbè, ma la fibra non dovrei fare niente se è fibra buona, ma siccome anche loro la riducono per i loro problemi, allora voglio vedere se riesco a risolvere quel problema della scheda. Sono nelle tue mani, dai, divertiti. Comunque mi sta sfasciando il collo questo cacchio di monitor, è troppo in alto, devo fare in modo di metterlo, fissarlo in un altro modo, in modo che sia molto inclinato, perché sennò non riesco a utilizzarlo. Infatti vediamo cosa ci dice per la sicurezza. Ah, forse perché sto facendo un aggiornamento, però l'ho bloccato. Ma l'aggiornamento di che cosa? Di Windows 10? Sì, e questa è una cosa importante. Ah vabbè, qua devi avere un account, lo puoi fare in seguito. Per adesso non è urgente. Comunque il programma che mi hai messo tu è già attivo, quello che dicevi tu. Sì, attivo, però come fa a avviarsi se non c'ha l'input? A noi ci interessa proprio quello. Vedi? Not sound card. Ma possibile non ci sia la scheda audio in questo corso, in questo computer? Come fa allora a utilizzarlo? Perché non sono stati installati i driver. Volevo vedere adesso di che scheda audio c'è. Più complicato del normale, Gianfranco. No, è che probabilmente la scheda è stata impostata male. Ma adesso vediamo un po'. Si può risolvere comunque. Sì, sì. Adesso vedo. Qua è stato usato un attivatore, il che ti potrebbe essere infetto, questo lo vedi? Questo che sto segnando. Esatto, potrebbe essere infetto che cosa? Qua nei file recenti c'è questo KMS Cloud 4640 che è un tipico attivatore che serve praticamente per attivare Windows illegalmente. Capito? KMS Cloud 46, comunque poi lo controlliamo cosa è successo. Comunque visto che il computer ha attivato una licenza digitale, adesso vediamo un po' cosa succede. Ok, ma è lento il computer o è normale che ci impieghi questo tempo per installare? Può essere normale, poi lo vediamo nel dettaglio. Dunque adesso devo riavviare il PC in modo che il supporto della Intel possa controllare tutti i drive che sono stati installati. Ovviamente riavviando cadrà la nostra connessione remota. Ok. Vabbè, dopo riprendiamo di nuovo la password. Ma figa che va brutto, eh? Si sembra far rendere. Poi per questo cazzo di mouse bisogna farlo, e poi alla fine sono andato, la mia sorella me ne ha dato uno che è più grande, è il doppio del pollice mio. Ma così vedi? Ma ti ha detto, ma cacchio, non l'avevi dato, però almeno funziona. Vabbè. Io sicuramente ce l'ho dentro qualche scatola, perché non ho buttato niente di quel computer, ma se me l'avresti detto, hai la pennina. Ti avrei dato quello che è codificato e avresti usato quello, ma io non lo sapevo, non te l'ho dato. Adesso se lo provo te lo do, visto che c'è la pennina, capito? Se no per un pareggio dare i cinesi, ma prenderlo col filo, però non prendere senza filo. Certo, ma poi se ne abbia qualcuno in officina pure, cacca, lo sai quanti ne avevi di computer e quanti ne ha usato. Adesso poi con il tablet usi direttamente dal tablet. Vabbè, col tablet sì, perché c'hai il mouse sul, anche sui portatili. Cioè, vabbè, sono passato a salutarvi, vado a pappare, se ci siete ci sentiamo dopo, ok, su 10 però, ok, ciao. Sì, hai visto che la Juve, la 92esima, ha segnato Quadrado. Sì, finalmente, finalmente, mi è arrivata, fa 3 punti, ma c'è da continuare a fare gol, anche a vincere anche il campionato, perché se no perde, perde la, la, la quota dei primi 4, capito? Certo non vince il campionato, però si deve almeno qualificare terzo o quarto, se no non, fa, non entra in Champion. In Champion mi sta piacendo tantissimo, in campionato un po' meno comunque. Il ballone è tondo, ce n'è partita ancora da fare, dai. Ciao Robè, ciao Gianfra, ci sentiamo dopo, ci dici, ciao. Sì, allora rivediamo dopo, dai. Ok, adesso si sta bisticciando con questa roba. Siamo stati mezz'ora e poi cazzo, alla fine basta facendo tutto con la tastiera, spostandoci, invece col mouse un secondo ci avrebbe messo. Infatti. Va bene, dai, a dopo, ciao ragazzi. Sì, buona cena. Ok, a dopo. Dimmi se si è riavviato Roberto. Mi sta dicendo preparazione di Windows, non spegne il computer, allora impiega mezz'ora. Sì, sì, non lo spegnere assolutamente, quello è l'aggiornamento di Windows. Ci impiega un po' di tempo a, a installarlo. Speriamo che sia una copia originale, perché se fosse una copia craccata la sgamma subito. Ok, e dopo quando diamo la password ci spostiamo su, ti puoi spostare un canale diciamo strano, diciamo da qualunque parte. E allora ci spostiamo, perché dire queste cose via internet è il malorno. No, guarda, vabbè, lo avremmo potuto fare anche tramite altri sistemi, comunque vediamo un po'. Comunque Gianfra, riepilogando, quella specie di chiavetta per il mouse ottico la tolgo via, la elimino, lo spazio di dietro, l'inserimento lo inserisci? Sì, se c'è un mouse a filo toglierà pure, tanto no, non serve a niente, a meno che non serva per il wifi, ma il wifi quello ce l'ha tramite scheda, non so come ce l'abbia. No, c'ho la pennina io con l'antennino, però ce l'ho messa adesso frontalmente, ho messo sia il mouse che la pennina frontale, però la pennina gliela piazzo dietro, così non è mezzo ai piedi. Adesso direi di, guarda, puoi togliere solo l'USB, quella del mouse wifi, ma quella lasciala stare, perché non vorrei che creasse casino sull'aggiornamento. No, non dico adesso, quando è tutto spento, è tutto a posto. La chiavetta la metto dietro, la chiavetta wifi. Tanto la wifi, guarda, senza dirti esagerazione, sarà di altezza a 60 cm e di distanza a 30 cm. Sì, sì, la conosco, c'è anche quelle microscopiche qua. Però preferisco per ovvi motivi usare la rete cablata, io ho tutto cablato, molto più veloce e più affidabile. E io? No, no, ma siccome questa cosa pennina con l'antenna è un po' ingombrante, non vorrei toccandola, spostandomi con le ginocchia o qualcosa, faccio danno, allora gliela metto dietro e non mi rompo le scatole. Robè. Dimmi già fra. Se vuoi un altro canale, accendo l'analizzatore. E puoi fare dei colpi di portante tipo CV, io me ne accorgo. Ok? No, scusa, non ho capito, se vuoi un altro canale, scusa? Se dobbiamo operare su un altro canale per questioni di sicurezza, puoi dare dei colpi di portante, così io ti intercetto subito. Ah, me lo possiamo anche dire. Una cosa, 993, più in basso di questo 993. No, non c'è bisogno di dirlo. Lo potevi fare anche senza dirlo, comunque va bene. Vabbè, comunque confermato 993, dai. Comunque tu vai anche su uno diverso e batti dei colpi di portante. Là ci sono. Perché sei così basso? Sono così poco. Ah, ok, siamo ancora dentro l'ambito di 1,40 o sotto. Aspetta, guarda una cosa, Gianfra, un attimino. Oh, Gianfra? Sì, siamo sul canale 3. Fai 5,3, 9,53. O ancora di meno. Fai 8,53. No, scegliete un canale e batti. Tu batti e colpi così mi... che ti trovo io. Ah no, adesso mi sto spostando comunque, è giù, sto scendendo giù.